Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di un periodo abbastanza importante della storia italiana, il periodo del dopoguerra, dagli anni 50 alla fine del secolo scorso, e lo facciamo con Adriana Castagnoli. Buonasera, professoressa Castagnoli. Buonasera. Adriana Castagnoli è docente di storia economica e sociale all'Università di Torino, collabora al Sole 24 Ore, autrice di numerose opere di storia dell'industria e l'ultimo libro è dedicato alla guerra fredda economica, Italia e Stati Uniti 1947-1989. Ecco, di guerra fredda si è parlato molto, di confronto tra gli Stati Uniti e l'allora Unione Sovietica negli anni dopo gli anni 50, però ecco, il lato economico e soprattutto il ruolo dell'Italia, che cosa fece l'Italia, che influenze ebbe la guerra fredda sullo sviluppo economico italiano, sono stati forse messi in secondo piano. Ora, con questo libro si riapre un capitolo di storia. Quali sono gli elementi fondamentali, professoressa Castagnoli, che definiscono il fatto che l'Italia ha avuto dei contraccolpi anche forti dalla guerra fredda economica, professoressa? Sì, la guerra fredda economica è innanzitutto, dobbiamo dire, un insieme di sanzioni, misure per limitare e nei casi estremi, diciamo, ridurre proprio al massimo la potenza o potenzialità economica dell'avversario. In questo caso naturalmente noi stiamo parlando della contrapposizione fra Washington e Mosca, certo, che ha caratterizzato tutti i decenni del secondo dopoguerra fino all'89, quando c'è stato appunto il crollo del muro di Berlino e poi l'implosione della stessa Unione Sovietica. Quindi il punto è quali strategie e geostrategie il paese leader, che in questo caso sono gli Stati Uniti, decidono di mettere in campo per contrastare l'espansionismo sovietico o per ridurre proprio la potenzialità economica, la potenza economica, la potenza di influenza anche dell'Unione Sovietica su paesi terzi. Perché la guerra fredda economica si combatte insieme agli alleati, quindi il blocco atlantico contro il blocco sovietico, ma si combatte anche a livello, sulla scena planetaria, certo, in tutti i continenti. Ecco, ma in questa prospettiva l'Italia ha avuto un ruolo particolare, perché l'Italia era sì un alleato degli Stati Uniti, però gli Stati Uniti avevano qualche timore sulla realtà italiana, soprattutto sul fatto che i comunisti, allora c'erano i comunisti potessero avere un'influenza forte sul governo ed essere un po' una testa di ponte in Occidente delle politiche sovietiche. Certo, innanzitutto, come lei giustamente ha sottolineato, conta la forte presenza comunista in Italia, il più grande partito comunista europeo. Ma contano dal punto di vista proprio dei rapporti economici i rapporti che la stessa Italia, attraverso grandi imprese come Eni per esempio, attraverso una figura come Enrico Mattei, per ricordare i nomi, diciamo, i protagonisti, certo, più noti al grande pubblico, intessono con Mosca o certo, con paesi che potrebbero essere o sono alleati di Mosca. Quindi sicuramente l'Italia viene tenuta sotto osservazione, si può dire con un'espressione ormai molto adusata, che è un osservato speciale per molti decenni, proprio per queste ragioni, ma anche per questo suoi, si sarebbe detto una volta, giri di valzer con Mosca. In particolare vorrei ricordare per esempio gli accordi per fornitura di petrolio che era proprio siglato Mattei con Mosca, stiamo parlando del periodo che va dalla fine degli anni 50 all'inizio degli anni 60, che avevano suscitato molte perplessità, ma anche gli accordi che Mattei stava aveva siglato con la Cina, con Pechino, che suscitavano ancora più perplessità e preoccupazione. Certo, e anche l'attivismo di Mattei non solo verso Mosca e Pechino, ma anche verso i paesi arabi, dove c'era una voglia di essere protagonisti, di giocare in prima persona, un po' se non contro, comunque a prescindere di quelle che erano i grandi dominatori del mercato del petrolio, che erano le sette sorelle, poi in fondo. Certo, però va anche ricordato e va detto che negli ultimi mesi, diciamo, di vita di Mattei, c'erano stati molti incontri con gli americani, incontri segreti, nei quali insomma emerge chiaramente che si andava a un accordo fra governo di Washington, compagnie petrolifere americane e lo stesso Mattei. Quindi da quel punto di vista si stava trovando una sistemazione. Ma l'Italia resta sempre sotto osservazione, perché comunque continua a essere un giocatore che ha interessi suoi, certo, che possono essere in contrapposizione con quelli americani, per esempio durante la vicenda del sequestro degli americani all'ambasciata di Teheran alla fine del 1979. In quel caso gli interessi riguardavano le forniture di parte di ricambio per gli elicotteri Agusta. Certo. Allora, chiaro che quella fu una fase, una congiuntura molto molto difficile per gli Stati Uniti, per il mondo intero, come poi sappiamo per le conseguenze che ha avuto l'ascesa degli Ayatollah al potere in Iran. Ma per quel che riguardava l'Italia, va ricordato che noi giocavamo un ruolo, fra virgolette, per così dire, ambiguo, in quanto che noi sì eravamo presenti sul mercato dell'Iran con nostre importantissime industrie, ma nello stesso tempo proprio gli elicotteri Agusta utilizzavano brevetti americani. Infatti eravamo un po' la testa di ponte, quindi visto un po' come un paese che faceva proprio i propri interessi al di là delle esigenze politiche. Questo anche negli anni precedenti sembrava un po' che l'Italia giocasse un po' su due fronti, magari con il governo. Si ricordano i viaggi di Fanfani, i viaggi di Fanfani a Mosca, che era impegnato appunto in un'apertura per garantire anche rifornimenti energetici, e la realtà economica che invece cercava di dare garanzie di affidabilità agli Stati Uniti. E lei ricorda i viaggi di Guido Carli a Washington per garantire appunto che l'Italia restava saldamente nell'ambito occidentale. Quindi esatto, c'è stato da parte italiana, non dico un opportunismo, però sicuramente una volontà di cercare di fare il massimo interesse con il minimo sforzo, diciamo. Possiamo dire così, gli sforzi in realtà ce ne sono stati molti, certo, perché poi noi dipendevamo dall'estero sia nei confronti degli americani per i brevetti e le licenze degli equipaggiamenti più sofisticati dal punto di vista tecnologico, sia da paesi fornitori di energie, e quindi dati l'energia prevalente in quei decenni, petrolio e poi successivamente gas. Questo ha significato dei rapporti opachi, per esempio, con la Libia di Gheddafi negli anni 70-80, quando Gheddafi, certo, è sospettato e comprovato, diciamo, che è stato uno dei finanziatori del terrorismo internazionale. Ecco, guardando adesso un po' a quello che resta, l'eredità di quel periodo, e guardando l'attualità, possiamo dire che abbiamo superato questo periodo di guerra fredda dal punto di vista politico sicuramente, anche se il confronto con la Russia, non più con l'Unione Sovietica, comunque resta aperto ed è sempre un confronto abbastanza pesante. Però dal punto di vista economico, forse tra Italia e Stati Uniti sono cambiati i rapporti. Probabilmente negli anni 60 un'operazione come quella Fiat Chrysler non era pensabile. Però devo anche ricordare che c'era stata l'operazione Olivetti-Underwood, che poi finì con la cessione della divisione elettronica Olivetti alla Generale Elettrica, sì, ma che non fu, come dire, un'operazione forzata, certo, da parte degli Stati Uniti, del governo di Washington, ma sulla quale non ci soffermiamo perché lì si richiedono analisi che riguardano il nostro capitalismo familiare ed altro. Quello che mi preme di sottolineare è che comunque il comportamento dell'Italia in fondo non era poi non si distingueva poi così tanto da quello degli altri paesi europei, che fossero Gran Bretagna, Germania o Francia, perché, come verrà sottolineato negli anni 80, quando ci sarà proprio il confronto fra l'amministrazione Reagan e Gheddafi, che si arriverà a incidenti molto gravi, come lei ricorda, per esempio nel Golfo della Sirte, il bombardamento di Bengasi e così via. Ebbene, gli americani si trovavano a porre delle sanzioni per limitare, appunto, indebolire il potere economico di Gheddafi, ma che lì alla fine registravano aver danneggiato essenzialmente le compagnie petrolifere americane, aver danneggiato sostanzialmente gli interessi americani, perché in realtà gli europei cercavano, e anche i canadesi cercavano, di fare i loro affari subentrando non appena era possibile agli americani laddove si erano ritirati in obbedienza alle direttive del loro governo. Ecco, il conflitto tra l'Europa e la Libia, sia durante gli anni di Gheddafi sia dopo, meriterebbe certamente un approfondimento, perché abbiamo complicato forse molto le cose in una situazione già molto complessa. Purtroppo non abbiamo il tempo, abbiamo solo il tempo di concludere con un'osservazione un po' generale. Certamente l'evoluzione economica degli ultimi anni ha portato necessariamente a una maggiore integrazione in quella che viene chiamata globalizzazione. Resta sempre, in fondo, in un'economia di mercato in cui siamo, il fatto che la concorrenza anche tra paesi è una realtà, e esiste ancora una concorrenza che può essere anche positiva tra Italia, Europa e Stati Uniti. Professoressa Castagnoli. Sì, dovendo, diciamo, sintetizzare tutto questo con una formula, possiamo parlare di cooperazione competitiva, fortemente competitiva in alcuni casi. E quindi stiamo andando anche verso un nuovo trattato transatlantico, tra molte polemiche, qualche protesta, con tempi abbastanza lunghi. Vedremo poi anche di osservare questa nuova evoluzione economica. Sicuramente però da un confronto aperto possiamo avere tutto da guadagnare, non è sempre uno scontro in cui uno deve vincere e l'altro deve perdere, si può essere anche competitivi e affrontare e crescere entrambi. Grazie a professoressa Castagnoli di essere stata con noi questa sera. Ricordo il libro La guerra fredda economica Italia-Stati Uniti 1947-1989, l'editore è La Terza, sono 250 pagine per 25 euro. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, appuntamento con Economia in Pagina, che peraltro può essere risentito dal sito www.radio24.it, e potete anche lasciare i vostri commenti sui programmi che possono essere riascoltati. Appuntamento con Economia in Pagina comunque è per sabato prossimo.